Mix 24 di Giovanni Minoli. Spesso si teme l'arrivo dei migranti nel nostro paese anche perché si ha paura che portino con sé malattie come la scabbia, la malaria e altre patologie contagiose. Mi sembra folle che un governo esponga a rischio i suoi cittadini di essere a contatto con malattie che ormai erano sconfitte in Italia, contro cui non abbiamo più difese. Non c'è alcun rischio di malattie infettive importanti, sono le classiche malattie della pelle e non c'è nessun pericolo per la popolazione italiana. In mezzo alle pozzanghere di Idomeni circa 12.000 profughi sono bloccati nel fango, manca tutto. E all'emergenza, la pioggia, al freddo, si aggiunge adesso la paura di un'epidemia. Si teme un contagio dopo che ad una bambina o un adulto è stata diagnosticata l'epatite A. Pietro Bartolo, lei è il medico di Lampedusa, buongiorno, uno dei protagonisti del documentario Fuoco a Mare, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino. Lei da tanti anni si occupa di immigrazione e assiste per primo sostanzialmente con i colleghi del poliambulatorio di Lampedusa chi arriva sulle spiagge dell'isola. E lei quindi, voi insomma diciamo del poliambulatorio, siete i primi ad accoglierli, è così? Sì, è così e praticamente... questo io lo faccio da 25 anni, dal 1991, ho perso qualche sbarco quando ero fuori dall'isola purtroppo, però li ho visti tutti. Li ha visti, tutti veramente. Quindi lei ha un'esperienza assoluta. Ecco, ma c'è il pericolo reale che con loro arrivino malattie nuove o comunque diverse da di quelle che diciamo sono conosciute qui in Italia? Ma assolutamente no, io dico sempre che queste persone sono dei Superman, perché dopo tante migliaia di chilometri, dopo tante sofferenze, arrivare in Italia veramente devono essere delle persone fortissime. Fortissime, quindi, in partenza proprio, già. Sicuramente, quindi io vi posso garantire che in tutti questi anni non ho mai riscontrato malattie gravi, malattie infettive, diffusive assolutamente. E quelli che arrivano malati sono malattie... che come sono figlie del viaggio, diciamo, in qualche modo. Ma sicuramente, sì, è dovuto allo stress del viaggio, è che sono praticamente la ipotermia, la disidratazione, qualche trauma dovuto, diciamo, ai trasbordi da una nave all'altra, che può succedere. Certo, naturale. O al massimo abbiamo questa famosa scabbia di cui tanto paura, ma in realtà la scabbia io non la definisco neanche una malattia, ma è una parassitosi. Cioè si cura rapidissimamente. Ma la curiamo con un solo trattamento e io infatti dico sempre che preferisco avere 4 volte l'anno la scabbia e non una volta l'influenza. Mi sembra un esempio molto chiaro. Ecco. Senta, ma è vero che le condizioni delle donne sono peggiori perché spesso si guadagnano la libertà subendo atti di violenza durante il viaggio? Sì, purtroppo sì, la maggior parte delle donne che arrivano sono tutte donne gravide, donne incinte e che per lo più vengono violentate, stuprate, deviziate in Libia, la maggior parte in Libia. Cioè prima di partire ancora? Sì, molto. Cioè prima si guadagnano il biglietto di viaggio così? Anche in questo modo, anche questo, perché loro sostano anche queste che provengono dalla fascia subsahariana, non siriana ovviamente, e sostano anche un anno, un anno e mezzo, due anni, e in quell'anno ne subiscono di tutti i colori. Anche essere violentate e pagarsi il viaggio in questo modo. Ecco, ma i bambini in che condizioni sono? Reggono o sono più fragili? Ma i bambini io li definisco straordinari, sono straordinari perché sono... a parte che vengono attaccati proprio ai genitori quando arrivano, alla mamma, e poi quando arrivano a terra sono così socievoli, si abbracciano, è come se capissero che già sono arrivati in un mondo migliore, che sperano migliore. Per quelle che arrivano purtroppo, certo, naturale. Purtroppo quelle che non arrivano, e allora in quel caso tocca vedere i nonni gioiosi e contenti, ma in altro modo. Senta, dottor Bartolo, ma una volta scampati al viaggio, superato il viaggio, qual è la procedura medica con cui vengono accolti? Sì, praticamente noi veniamo chiamati anzitempo, un paio d'ore prima, dalle forze dell'ordine, delle forze militari che vanno a salvarle, che può essere la Guardia di Finanza, Capitanie di Porto, Carabinieri, insomma la Marina. D'accordo. Allora loro mi chiamano. Ma c'è un protocollo? Sì, c'è un protocollo, loro mi chiamano e io attrezzo tutto quello che è necessario per arrivare in panchina con altri medici, che potremmo essere uno, due, tre a seconda delle necessità, del numero, perché loro mi dicono il numero delle persone, se ci sono delle gravi situazioni, quindi mi porto al porto di notte o di giorno e là li aspettiamo. E questo protocollo viene accettato bene o fa paura? O hanno paura? Mediamente. Questa è una domanda bella, sa, perché quando noi siamo al porto che li aspettiamo, dove ci siamo noi medici, parasanitari, tutte con le nostre divise colorate, poi ci sono i militari, quelle con le, insomma, siamo 20, 30, 40 persone che aspettiamo. Allora loro quando arrivano con le motovedette e vedono tutta questa gente, sono impauriti, dico questa cosa ci faranno questi, ma perché c'è tutta questa gente? Poi invece quando scendono a terra, man mano li faccio scendere, magari una pacca sulla spalla, magari una carezza, anche una parola, non sappiamo, e gli vedi cambiare il volto, da spaventati invece hanno capito che sono arrivati in un paese amico, in un paese buono. E questa procedura è sempre la stessa, quindi? È sempre la stessa. Ma i lampedusani, lei ha detto delle cose bellissime nel documentario, però i lampedusani non hanno mai paura di essere contagiati, di essere a rischio di malattie nuove o qualcosa del genere? Ma assolutamente no, conviviamo, oggi per esempio qua sono per strada, sono con noi, vanno al bar, parlano con noi, a Lampedusa non sono mai spaventati di questo, anche perché lo sanno che sono delle persone normali, sono delle persone come noi, uguali, non è che assolutamente, naturale. Quindi i lampedusani non hanno mai protestato, non si sono mai ribellati, anzi li accolgono come dei fratelli normalmente. E invece per chi non ce la fa vengono fatte le autopsie per verificare la causa delle morte? Quella è la cosa che sta toccando un tasto un po' per me, un po' doloroso, perché purtroppo a fare le espressioni cadaveri sono solo io, da sempre, e capisce bene che... Certo. Che quando deve specialmente vedere un bambino morto, per me è una tragedia enorme, mi rimane dentro, sulla pelle, mi sconvolge nel cuore. Senta, ma per chi arriva in quella che loro pensano la terra promessa, qual è l'impatto con la realtà, il primo impatto, al di là di questa paura di tutti questi colori e queste persone? sì, praticamente loro subito dopo qualche minuto, vedendo insomma che sono ben accolti, ci sono quelli della Caritas, ci sono i volontari, che gli dà qualcosa di caldo, che gli dà il vestito, chi ci parla, quindi loro si sentono, quindi cambiano volto, quindi si vede che hanno trovato un paese amico. Ma quando lei dice si parla, gli si parla, ma come, in che lingua? Vabbè, anche a gesti, basta un gesto amico, già quello dice tutto, no? Non è che hai bisogno di parlare, insomma, basta una carezza ai bambini, ai giovani, alle donne, a tutti, a chiunque, e loro subito insomma diventano disponibili, cercano di parlare o di comunicare in qualche modo. Certamente abbiamo anche qualche mediatore culturale che ci aiuta, non sempre, ma in questo periodo ce l'abbiamo, e quindi riusciamo anche a parlare, qualcuno parla l'inglese e quindi insomma qualcosa di inglese o francese, insomma riusciamo a metterci a comunicare. Un'ultima cosa, dottor Bartolo, la ringrazio molto, ma c'è un'assistenza anche psicologica per queste persone? Sì, all'interno del centro poi ci sono degli assistenti, delle psicologhe, ci sono due psicologhe lampedusane fra l'altro che lavorano all'interno del centro, e poi anche noi al poliambulatorio, da noi, quando ci sono dei casi un po' più gravi, capisce bene quello che hanno subito, sicuramente dal punto di vista psicologico. Ecco, lei che mi ha detto che è più di 20 anni, 25 anni che fa 25 anni che fa questa accoglienza, quali sono le differenze che ha notato di più? Cos'è che è cambiato? A parte i numeri e la quantità. Ma se posso posso dire, è cambiato il sistema di trasferimento, sono cambiate anche le patologie in pratica, perché mentre prima erano solo disidratazioni, erano come dire, la ipotermia o la denutrizione, oggi invece come patologie vediamo di più le ustioni, soprattutto le ustioni chimiche, che è quelle che ci fanno lavorare tanto. Perché? Perché non vengono più con barche autonomamente, con barche grosse che dovevano arrivare fino a Lampedusa, ma i trafficanti, per risparmiare, sapendo che a 20 miglia ci sono le navi italiane, li mettono in dei gommoni fatiscenti, questi sono costretti a rimboccare le taniche con la benzina che va a finire per terra, si inzuppano i vestiti con la miscela acqua e benzina, e questo determina un danno enorme, cioè delle ustioni gravissime che a volte ci mettono veramente in difficoltà. E quindi poi siamo costretti a questa è la trasformazione più significativa. Sì, queste di qua sono queste patologie che prima non ne avevamo, patologie sono dovute proprio a una situazione, un contatto chimico con la benzina. Ecco, una testimonianza molto forte, autentica, quella del dottor Pietro Bartolo. Ma malgrado questo, c'è chi grida al contagio, l'epidemia, esagerando su dati inesistenti. Ecco, Mario, è una strumentalizzazione politica questo? Sì, purtroppo, vergognosa. Perché un conto è affrontare il problema degli sbarchi e dell'immigrazione, un altro conto è costruire delle paure inesistenti. Sì, ma è la speculazione politica, avviene da tutte le parti, bisogna essere sinceri su questo, molto grave, ed è comunque, attenzione, la tendenza costante ormai del paese a non voler accettare i dati empirici. Questa è, cioè, c'è tutto un movimento ormai antiscientifico che si coniuga all'ignoranza dei numeri e il non arrendersi alla loro evidenza. Cioè la realtà non interessa. No, non interessa, è un dibattito completamente virtuale. Sganciato è la costruzione delle paure come strumento di governo e di potere. E di pressione psicologica e creazione ovviamente di nuovi fantasmi, di nuovi mostri, quindi paura via. Del contagio, paura dell'invasione, paura dei terroristi, sono tante le paure che arrivano con chi sbarca. Pietrangelo, è così? Ed è il mare grande, l'angoscia che abita dentro il cuore di chi sbarca. Io sono a Palermo, ne approfitto e vorrei offrire agli ascoltatori un gioiello di Valentino Picone e Salvo Ficarra, nell'interpretazione di Salvo Piparo, ed è la storia di Mansur. Eccola. Avevano passato 7 anni da quando Umare l'aveva portato in Italia, ma mai, a dire la verità, Mansur era riuscito a scendere in capo a Davaica. Tanti, troppi erano ancora le nottate dove si era svegliato sudato, pensando di essere ancora sopra quella barca in mezzo a tutto domare. Tanti, troppi, erano ancora i ricordi che lo portavano run un pezzo ruso munno avia affondato. Eppure quel giorno Mansur si fece fottere dal suo passato e dai suoi ricordi, che col tempo erano diventati fotografie che si inseguivano rintuoso ci devia. Grigio, scuro, acqua, salata però. Mare, incazzato, facce come i piedi, facce senza lacrime, feniero, piccirette scantate, mate disperate, e mensa a tutti queste mate, quella di Mansur. Mare, terribile, e in capo a tutto nuvole, scuruse, l'aria, anzi no, lupi pronti a scendere nei cuori dei piccirette, nei cuori dei padri, mortificati, rassegnati, che niente possono fare. Cupicciriddu non respira più da un paio di ore. La madre se lo stringe al petto speranziosa. La madre lo sa, tutti lo sanno quello che si deve fare. Sono i patti che si fanno con lo scafista prima di partire. Ma lei, la madre, se lo vuole tenere ancora una volta anticchia tra le sue braccia. Udinto scafista dall'ordine, o tu o picciretto. le parole rimbombano a mare aperto. La madre si alza, si vergogna di non avere più lacrime, si mette a ginocchioni, prega il suo Dio e con la dignità di chi sente ancora, nonostante tutto, di appartenere al genere umano, lascia scivolare Opicciriddu a mare avvolto in un lenzuolo bianco. Abidù, così si chiamava Opicciriddu. Beh, dopo questa testimonianza forte, diciamo, cerchiamo di costruire qual è il percorso dell'assistenza. Dopo la prima assistenza all'arrivo, i migranti e richiedenti asili vengono smistati nelle strutture di accoglienza di tutta Italia, dove l'assistenza sanitaria è garantita dalle AS locali. Ecco, la dottoressa Maria Grazia D'Aquino è direttore della struttura Alta Professionalità Immigrazione di Padova, è soprannominata la dottoressa dei profughi. Pochi giorni fa, però, dalle pagine del Mattino di Padova ha lanciato un allarme: serve personale, possono contare solo, lei può contare solo sull'aiuto dei medici volontari. Quindi lei è da sola come medico ufficiale, è così? Sì, sono da sola perché col blocco delle assunzioni che c'è stato, pur con tutta la buona volontà della direzione generale. D'accordo, però lei è da sola e per questo il giornale ha lanciato l'allarme. Lei sottolinea che l'accoglienza, soprattutto dal punto di vista medico, è una responsabilità pubblica. Però di fatto, se lei nel suo ambulatorio è da sola, senza i volontari non potrebbe far niente, così? Certo, non con un'ondata di questo tipo, perché naturalmente, conto, beh, certo. Noi abbiamo quasi oramai visitato più di 1900 profughi, quindi lì dipende dalla situazione, è una situazione effettivamente di emergenza. Voi vi vedete arrivare tutti questi migranti e il medico è solo lei, gli altri sono volontari, questo gli è il fatto. Gli altri sono volontari, però ecco. Vede, direttore, quello che mi preme di sottolineare non è soltanto la questione di visita e basta. No, che, perché poi c'è tutto un lavoro burocratico, esatto. Va fatto ed è solo lei che tecnicamente ha l'autorità per farlo. Io e pochi presidi. Voi di fatto garantite il primo check-up medico entro tre giorni dall'arrivo. Anche perché, guardi, su circa 1900 profughi, se 5 o 6 avevano qualche corredo di documentazione sanitaria, è tanto. Quindi, quindi proprio zero. Bisogna assoluto, costruire una sì. storia, un'anamnesi completa praticamente. Esatto, della persona. Esatto. Senta, però volevo chiederle una cosa: i migranti vengono forniti della tessera sanitaria per stranieri temporaneamente presenti. A cosa serve questa tessera? Serve a tutto, direttore. Cioè, praticamente è la responsabilità del medico che, come è da disposto di legge, fa sì che la cura essenziale o la cura essenziale ancorché continuativa, pensi per esempio a un diabete, che pure abbiamo trovato, oltre a quelle con carattere di urgenza, possono essere tutte devolute a favore di questi soggetti. Ecco, l'unica cosa che cambia, direttore, è che non hanno il medico curante. Naturale, nei bambini e negli adulti. Io vorrei tanto che oltre me ci fosse un altro medico, almeno perché, vede, essendo in due noi non dobbiamo ricorrere a volontari, perché vede, i volontari sono una preziosissima risorsa, però noi siamo un ente pubblico. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Gli sms sono molto interessanti, i vostri sms, perché si segnala, non posso leggerli tutti, ma si segnala proprio una spaccatura netta in due delle reazioni. C'è chi dice: voi giornalisti continuate a fare trasmissione per condizionare gli italiani all'accoglienza e noi non li vogliamo, se si facesse un referendum scoprireste che no sono l'80%, Maurizio da Milano. Poi c'è chi dice invece: grazie per la bellissima trasmissione che sto ascoltando, Andrea Avogadro da Novara. Cioè una spaccatura. Posso veramente dire una cosa? No, molto interessante. Di Mario, il soccorso in mare, cioè non è una cosa volontaria, no. È un obbligo internazionale. nazionale. Assolutamente. Cioè, tu lo devi fare, non è che tu questo te lo puoi, ti puoi permettere di passare oltre. Faccio un esempio banale: tu vai in barca e naufraghi. Se si potesse fare come pensa qualcuno, allora nessuno si ferma a prenderti. E poi che fai? Cioè, ci sono leggi internazionali che vanno rispettate. Ancora una volta, il dato empirico viene scambiato per un'opinione. Non è così. Roberto da Pistoia ti dà ragione. Mario dice: bravo Mario, ha centrato in pieno il problema. I dati, cioè sì. il reale e non le strumentalizzazioni. Si accontentano. Le malattie arrivano bugie. O non arrivano, esatto. è un'opinione. È un fatto. Infatti, Pietrangelo, se la foto del bambino che nasce nel fango da Speranza, quello del piccolo Eilan senza vita sulla spiaggia di Kos, che cosa ha significato? Che momento è stato di questa lunga odissea degli uomini? Purtroppo in questa lunga odissea c'è anche il mercato delle emozioni. Appunto. Ma vorrei dire una cosa, e mi ricollega a quello che stava prima spiegando bene Mario. Io sono convinto, al di là del mercato delle emozioni, che molta di quella gente che anche con cattiva decisione scrive certe cose, sono sicuro che messo in una condizione, stare in acqua, avere la possibilità di salvare, perfino quella gente sicuramente salverebbe le altre vite umane. Perché l'istinto di solidarietà è ben più forte di quello della sopravvivenza. Infatti, torniamo allora a parlare del processo, del percorso di questa assistenza. Concetta Mirisola, che è direttore generale dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti, che è un ente pubblico vigilato dal Ministero della Salute. Allora, dottoressa Mirisola, stando proprio a quello che dice Mario, ai numeri, quanto costa al Servizio Nazionale Sanitario l'accoglienza ai migranti? Innanzitutto dobbiamo parlare di migranti in condizioni di irregolarità e di irregolarità. Sì. I migranti in condizioni di irregolarità sono 5.400.000 sì. in Italia e il costo per quanto riguarda l'assistenza incide intorno al 3,6% della spesa sanitaria, quindi intorno a 3,9 miliardi. 3,9 miliardi è il costo dell'accoglienza ai migranti? È la stima sostenuta per la sanità per quanto riguarda i migranti sì. in condizione okay. di regolarità e irregolarità. Perfetto. Ma dobbiamo considerare un effetto che è molto importante. Le persone che vivono in Italia in condizione di regolarità producono, chiaramente pagano le tasse. Beh, e, certo, quindi, e quindi chiaramente tra le entrate e le uscite c'è un saldo positivo di 3,1 miliardi di euro. Quindi le persone quindi in condizione convengono, di regolarità non costano. Cioè, non, infatti, infatti questo, va bene. Questo è un aspetto molto importante. Senta, che e quante risorse? Certo, molto importante. Quante risorse abbiamo a disposizione? Allora, queste risorse, chiaramente gli stranieri in condizioni di irregolarità possono pagarsi il loro diritto alla naturale, salute. Anzi, rendono. Anzi, rendono. Rendono, è un patrimonio attivo. E diversa per gli irregolari? Diversa situazione per quanto riguarda gli irregolari. Adesso delle stime sono state fatte, ecco, soprattutto relativamente alle schede di dimissione ospedaliera relative al 2015-2013. E lì i costi? Come siamo? I costi sono, mediamente si sono intorno a 30-32 mila gli ricoveri annui e i costi sono intorno a 98 milioni di euro. Di questi 46 milioni sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sì. 52 milioni invece del Ministero dell'Interno. Quindi quando diciamo che l'immigrazione sì. irregolare ci costa, dobbiamo sapere che ci costa 46 milioni, non di più e non di meno. Sì, per il Servizio Sanitario Nazionale. Naturale, parlando del Servizio Nazionale. Certo, è un altro costo che dobbiamo considerare, sono 6 milioni di euro, che sono le spese per l'assistenza distrettuale, insomma, d'accordo. Per l'attività di prevenzione. Certo. Noi questo abbiamo per il Servizio Sanitario Nazionale. Chiaramente sono costi stimati. D'accordo, si possono discostare dalla stima, certo, poi, certo. Però grosso modo l'ordine di grandezza è quello. Diciamo, ecco, che l'ordine di grandezza complessiva è quello che abbiamo è detto. 3,6% complessiva tra gli stranieri in condizione di regolarità e irregolarità. Senta, dunque noi abbiamo ascoltato prima la storia della dottoressa D'Aquino a Padova, una storia particolare perché lei si trova sola sostanzialmente nella sua ASL, se non avesse l'aiuto dei volontari, a fronteggiare l'emergenza dei migranti tra le cure mediche e soprattutto le pratiche burocratiche di cui è responsabile. Una sola persona per 1900 migranti. Allora, io sono poche. Allora, io non conosco la dottoressa D'Aquino, ma il Servizio Sanitario Nazionale offre un'assistenza ed è articolata con medici, infermieri, insomma, lei lavorerà in un'ASL, ritengo. Sì, sì, una ASL, no, ma per la parte, diciamo, è unica a 1900 migranti, naturalmente in una condizione di normalità, non di un assalto, diciamo, in qualche modo, di un numero così forte come è capitato adesso, sarebbe anche praticabile. Ma, insomma, con 1900 migranti da sola è un po' complicato. Guardi, io non conosco il caso specifico, le dico che il Servizio Sanitario Nazionale fa l'assistenza ai migranti, a tutti, perché l'articolo 32 della Costituzione sancisce un diritto costituzionale, certo, all'assistenza per chiunque. Ecco. Noi siamo un istituto pubblico che si occupa di migranti, si occupa anche di fasce di povertà e abbiamo assistito nel tempo 90.000 persone, 350.000 accessi. È una cosa che abbiamo notato in questi ultimi anni, proprio come si è aumentato il numero degli italiani che accedono ai servizi, infatti, in esattamente. Però dopo anni di emergenza, il Ministero, se non sono male informato, ha ancora in cantiere le linee guida dell'assistenza sanitaria ai migranti. Ma ancora in cantiere le linee guida? Allora, non è un po' tardi? Io le dico una cosa, per quanto riguarda le linee guida ce ne stiamo occupando noi come istituto. E sono ancora in cantiere, me lo conferma? Nel 2015 abbiamo creato un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, con la Società delle Medicine e delle Migrazioni, con la rete, perché all'interno dell'Istituto... No, d'accordo, ma io volevo sapere se allora, queste linee guida sono ancora in cantiere o siamo arrivati. Noi ci stiamo occupando adesso, sa che noi siamo un nuovo istituto, un ente, certo, di nuova istituzione, e stiamo lavorando soprattutto per linee guida sui controlli sanitari all'arrivo, certo, e i percorsi di tutela sanitaria con in particolare riferimento ai migranti che sono ospiti nei centri, d'accordo, di accoglienza. No, ma io volevo una risposta. Che entro ottobre, novembre chiuderemo, ecco, queste linee guida. Entro ottobre, novembre avremo le linee guida. Sì, senta. Sì, sì, e sono anche altre linee di attività, altre linee guida per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni e anche, d'accordo, i controlli sanitari in gravidanza. Senta, le preoccupazioni su scabbia, ebola e tubercolosi sono fondate oppure sono infondate? Allora, dobbiamo dividere i due aspetti. Per quanto riguarda l'ebola, assolutamente è infondato. È infondata perché tubercolosi e scabbia? Allora, la scabbia esiste. I principali problemi di salute che abbiamo trovato nei pazienti, nelle persone che hanno fatto sono legate alla scabbia. Ma la scabbia è una malattia che si cura con due giornate di trattamento. Sì. Il 60% delle persone avevano scabbia, pediculosi, proprio perché sono stati in, certo, centri di alta promiscuità, certo, quindi condizioni proprio disagiate. E tubercolosi? La tubercolosi è una malattia della povertà. La tubercolosi si trova anche tra gli italiani e quindi chiaramente è possibile trovarle, gli dirò che i casi sono stati limitati, ma non è un problema. Ecco, un'ultimissima cosa, quali sono le patologie più diffuse tra chi arriva in condizioni disperate? Sono queste che abbiamo detto o ce ne sono, sì, delle altre? No, sono prevalentemente malattie dermatologiche che rappresentano il 55%, 60% dei casi, quindi scabbia, pediculosi, malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dei traumatismi pure legati, certo, al viaggio, ma queste sono le patologie, certo, predominanti. Ecco, Simone da Reggio Emilia. Simone, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Niente, io sono un medico in formazione di medicina generale, opero qua a Reggio Emilia, dove, sì, siamo una delle città in cui il tasso di popolazione immigrata è tra i più alti, sì, in Italia, siamo intorno, dica, al 12-13%. Io sinceramente come medico mi sento di contestare questa sottostima di malattie importate da questa popolazione migrante che per l'appunto va... Dica la sua, perché, sì, perché senso, sottostima? Perché bisogna... Noi non è che stimiamo o sottostimiamo, abbiamo fatto parlare i testimoni, cioè persone che sono front line sul problema. Il, sì, dottor, esatto, Bartolo è 25 anni che li accoglie e la dottoressa oggi ci ha detto... Ebola no, TBC no, scabbia sì, ma la scabbia si cura in due giorni. Lei cos'è che contesta esattamente? Che il carico in realtà complessivo delle patologie che portano i migranti in realtà è superiore nel lungo periodo. Cioè, che vuol dire? bisogna considerare che la popolazione immigrata tendenzialmente ha un accesso alle cure meno valido rispetto. No, ma volevo capire quali sono le malattie che lei dice che sono sottostimate nelle testimonianze che abbiamo portato stamattina, per capire la sua opinione. Una su tutte è l'HIV. L'HIV ha dei costi naturalmente di gestione molto alti, ma anche sociali, cioè loro stessi non ne sono a conoscenza. Per esempio tutto il percorso della nascita bisogna strutturarlo, bisogna terapizzare la madre e programmare il parto e quant'altro. D'accordo, lei dice che bisogna fare un'analisi più complessa. Però è no, no, infatti abbiamo dato la parola per sentire un'opinione diversa da quella delle testimonianze. Grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mix 24. Pietrangelo, da Palermo. Pietrangelo, sì, ci senti qua. Da Palermo, cosa ci fai sentire oggi? Che ho fatto una camminata verso la marina e ho potuto godere di uno spettacolo unico, un saltimbanco alle prese con un nuovo numero da provare. Se ne stava in bilico su una corda tenuta tra due sfilacci di nuvole bagnate dal primo sole, ed ogni passo lasciava gocciare lacrimucce di pioggia che appena arrivavano a terra diventavano ciuri. E poi, sempre alla marina, ho incontrato la sirena, quella di Tomasi di Lampedusa, e mi ha proposto un caffè da prendere al bar di via Enzo ed Elvira Sellerio, e con una goccia di cioccolato fondente abbiamo brindato alla coppia che ha costruito lo scrigno di bellezza e poesia in questa città. E che per fortuna Palermo ha saputo ricordare, intitolandogli una strada. Infatti, una bella cosa. E allora, ma tu Mario, cosa ci racconti? No, prima c'è Berlusconi. C'è Berlusconi che interviene sul caso Meloni. Ah, e dice? E dice Berlusconi, due punti, Meloni non può fare mamma e sindaco. Non può fare mamma e sindaco. Introduce un gran tema grande di dibattito. Tema. Vabbè, andiamo con la bolla. Sappiamo che i prossimi mesi questo sarà il tema di discussione. Mamma e sindaco. Le elezioni di Roma. Vabbè. Cantano Rihanna, brava e bella, quindi grande voce. Ok, e con Kanye West, tra l'altro, quindi 1, 2, 3 Putin, Giovanni. Vai, e poi Putin questo ha di nuovo anticipato tutti. Beh, allora è una cosa molto seria, divertente dal punto di vista dell'analisi politica delle relazioni internazionali, e a Washington, io ho letto un po' di cose stamattina prestissimo come sempre, e a Washington si interrogano e si chiedono, ma non è che questo ci ha fregato anche stavolta? Mi pare proprio di sì. Oppure dicono o si è fregato lui. Io anche sono per la prima, anche dopo aver letto parecchio, ripeto. E perché Putin comincia il ritiro, ma in realtà tiene aperte le basi. Spiazza appunto tutti, alla vigilia hanno ripreso ieri dei colloqui di pace in Siria. E gli esperti concordano, perché comunque sul campo, sul terreno, la Russia ha inferto colpi durissimi all'opposizione di Assad. Questo è abbastanza acclarato da tutti. Certo. E l'altra cosa è che per la Casa Bianca è vero che la mossa resta un dilemma, ma in tutto questo c'è una grandissima lezione, e cioè che la riluttanza di Obama nell'impegnarsi in guerre che lui considera senza fine è smentita dalla tattica e strategia militare dell'esercito dell'esercito russo e dell'aviazione russa, perché in pochi mesi cosa ha fatto Putin? È sceso sul terreno di battaglia con i tank, con gli aerei, con gli uomini, con i gruppi speciali in Siria, ha cambiato lo scenario e alcuni mesi dopo ha detto stop. E quindi le guerre non sono senza fine e le guerre possono cambiare le carte in tavola. Comunque, devo dire che dal punto di vista che gioca strategicamente con una lucidità assoluta può essere discutibile, sì, no? Sì, naturalmente, però, come tutto, però bisogna riconoscergli di essere un grande stratega. Noi facciamo, sì, dobbiamo ricordarlo, facciamo dei come dire, degli incontri fra ministri ogni 10 giorni, sì, ogni 8 giorni, senza risolvere si niente. Incontrano, si capisce mai cosa viene fuori, quello ha un'idea, la realizza, insomma. Com'è che disse Prodi qua da noi una volta, disse, beh, questa è politica. È politica, esatto. Salamino! Amministrative e carte vincenti, Silvio Berlusconi è pronto a stravincere. Dopo il fuoriclasse Guido Bertolaso, candidato sindaco di Forza Italia nella capitale, l'altro nome su cui è sicuro che non ci sia il rischio che possa risultare incinto nei prossimi giorni è quello di Clemente Mastella. Già nel fine settimana, e lo rivela il super informato Giuseppe Falci oggi sulla stampa, il Cavaliere formalizzerà la discesa in campo dell'ex ministro del governo Prodi. Musica! Attenti a Mastella. Nell'aprile 2006 con l'Unione si è presentato, divenne ministro della giustizia, forse qualcuno l'aveva votato, e gli approdando al ministero disse stavolta me la levo, parlava di sete di potere di cui da sempre viveva schiavo. Insomma, i sondaggi sono dalla parte di Mastella. L'ultimo, fornito da un istituto, non mi ricordo quale, il marketing appunto, IPR, lo darebbe al 31%, 10 punti percentuali sopra il candidato del Partito Democratico Raffaele Del Vecchio, che va da sé vincitore delle primarie renziane. Un altro invece, un altro sondaggio, lo attesta sotto il candidato dei 5 Stelle con cui comunque andrebbe al ballottaggio. La candidatura di Mastella, che ripetiamolo, non rischia nei prossimi giorni di risultare incinto, ha avuto una benedizione. Musica! Migliore benedizione se non quella del cerchio magico stretto intorno al pazientissimo Berlusconi. Sandra Lonardo, moglie dell'ex ministro, ha un rapporto privilegiato con Francesca Pascale, fidanzatissima del pazientissimo Berlusconi, e con Maria Rosaria Rossi, potentissimo parlamentare che appunto chiude il cerchio del magico cerchio suddetto. Abbandonata l'idea di costruire la Margherita 2.0, quella che doveva fare con gli amici Casini, Alfano, eccetera, Mastella ha già pronto uno slogan: il sindaco l'ho già fatto. E dunque, secondo giusto sillogismo, il concetto è: io il sindaco lo so fare. In caso di successo, lui ha fatto sapere che rinuncerà allo stipendio. Tutto sembra volgere al meglio se non fosse per l'opposizione di Nunzia De Girolamo. Ma, cerchio magico a parte, la morale è solo una: non si può rottamare l'irrottamabile. Mastella, per usare le parole di Berlusconi, nella città di Benevento è conosciuto dal 97% dei cittadini. Pare di immaginare che farà pure lì delle gazzebarie come quelle già fatte a Roma per avere il risultato simile del 97%. Insomma, sarà una primavera di squillanti vittorie per il Cavaliere e l'estate, per la giusta frescura, ha una sola cura. Musica! Io garippo e tu den grip, se per caso dico no. Bravo Filippo Falci che ha fatto lo scoop. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. Mix 24. Sto concependo un progetto rivoluzionario per il futuro dell'Italia, amore mio, anche se non ancora tutto mi è chiaro. Tutti insieme cercheremo di immaginare il futuro, di vederlo, perché solo se saremo in grado di vederlo, di immaginarlo, lo potremo raggiungere. Una fabbrica che funziona in una società che non funziona non serve a niente. Bisogna cambiare gli uomini, c'è bisogno di un progetto sociale. Vedo della gente che collabora con altra gente per costruire una città diversa, una città dove non il denaro, ma l'uomo è al centro di tutto. Così Luca Zingaretti in una fiction di successo, La forza di un sogno, nei panni di Adriano Olivetti. Olivetti, industriale, urbanista, politico, editore, unisce il successo dell'impresa a un progetto sociale ancora insuperato e crea un nuovo rapporto tra imprenditore e operaio, tra fabbrica e territorio. Adriano Olivetti, l'impresa etica, una piccola azienda che compete con i giganti del mercato mondiale. E ancora la genialità di un rivoluzionario prototipo di computer, programma 101, è il mistero di una morte sospetta. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale Rai. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, è un aggiornamento e poi aggiungo una cosa. Un po' di musica. Miloli, se non gli piace sto ritmo. No, l'aggiornamento è questo: alla Camera discutono una cosa utile per una volta, la legge che consente di utilizzare gli sprechi alimentari e di donarli. Voi sapete tutti, l'abbiamo tra l'altro affrontato, l'abbiamo fatto tante volte qua, sì. A Mix 24, questo era un problema legislativo da superare, speriamo approvino in fretta, è cominciata la discussione preliminare, quindi bene il Parlamento a fare questa cosa. L'altra è che è iniziato il ritiro russo, stanno arrivando un po' di notizie, stanno partendo aerei a gruppi carichi di uomini scortati appunto dai caccia, e quindi Mosca, no? Dice una cosa e la fa. E poi la fa, e l'altra è che sta esplodendo ovviamente il tema della campagna elettorale romana della destra. Vabbè, e lì adesso sarà da seguire con grande attenzione. Questa scesa in campo di Berlusconi così chiara, con una linea precisa. Sì, molto, cioè uno scontro frontale tra Berlusconi, Salvini e Meloni, il che significa che non c'è nessun centrodestra, cioè è tutti contro tutti. Tutti contro tutti. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Ho scelto una canzone per chi, pur non amando, come sabbia acceca. Mattia Bazzar, Ti sento.